Torniamo a parlare di Italpizza, un'avvertenza che seguiamo da tempo e che nelle ultime settimane ha portato insomma a risvolti anche abbastanza clamorosi. 67 persone hanno ricevuto l'avviso di fine indagine, quindi potranno finire a processo. Si parla anche di altre persone indagate per appunto i picchetti. Parliamo di questa vicenda con Marina Prosperi, avvocata di Sicobas e dunque anche delle persone che andranno a processo. Per prima cosa ti chiedo se puoi ricostruirci questa vicenda. La vicenda di Italpizza nasce nel 2018, a fine anno, grosso modo, tra novembre e dicembre, in quanto dopo un intervento del Sicobas a difesa di alcune lavoratrici, queste ultime vengono trasferite immediatamente da quell'impianto a un altro cantiere distante oltre 50 chilometri. Le ragioni dell'intervento iniziale erano date dal fatto che le lavoratrici di fatto avevano una prestazione a chiamata, nel senso che non avevano un orario prestabilito, comunque organizzato in maniera tale che potessero avere una minima vita privata, in quanto potevano ricevere la chiamata per andare a lavorare anche dopo aver finito un turno di 8 ore per prendere servizio un'altra volta dopo 2 ore. Alcune raccontano che addirittura dopo turni notturni rimanevano a dormire in macchina perché così sollecitate dal proprio capo impianto, mentre erano in macchina che dormivano, gli ricevevano la chiamata per tornare a lavorare. La situazione era anche quella che vedeva dei contratti collettivi applicati diversi da quelli che dovevano essere utilizzati in un impianto che produceva pizza, perché dapprima erano inquadrati i lavoratori come facchini, quindi con i contratti della logistica, dopodiché come addetti alle pulizie a seguito di un disgraziato accordo con i sindacati confederali, che aveva visto la trasformazione di persone che si occupavano della stenditura, farcitura e confezionamento di pizze surgelate, quindi di prodotti alimentari, e vedeva il passaggio del contratto da quello appunto di facchinaggio, logistica eccetera, al contratto di pulizie. Quindi dopo questo intervento da parte del Sicobas le lavoratrici vennero trasferite. A quel punto iniziò un'avvertenza molto molto dura che vide più volte il Sicobas presso la prefettura di Modena arrivare ad un accordo nel dicembre del 2018 in base al quale i lavoratori sarebbero dovuti essere reintegrati nell'impianto e i contratti cambiati. Quindi accade che Sicobas a quel punto, un po' per lo scalpore della vicenda, un po' per il fatto che tutto ciò era avvenuto non certo tra convenevoli, quindi dopo lotte abbastanza serrate davanti ai cancelli, riceve decine di iscrizioni da parte dei lavoratori di Italpizza. A quel punto le lavoratrici reintegrate, invece di essere reintegrate nelle mansioni che svolgevano, venivano, e siamo all'inizio di gennaio del 2019, venivano messe a pulire, in quel caso mi ricordo, il guano che era addirittura sopra il tetto di uno dei magazzini, o a spalare i piazzali dalla neve, visto che era periodo invernale di nevicate. Anche lì ci fu nuovamente un intervento da parte del Sicobas, e come intervento non intendo una cena di gala, perché l'intervento è: vi prego, mettetevi in regola, e la risposta è no, e quindi inizia poi il confronto davanti ai cancelli e sostanzialmente la questione delle lavoratrici viene risolta. Rimane fuori la questione delle ore dei contratti. A quel punto, visto che Italpizza, nonostante tutto, ritiene di non dover riconoscere la legittimazione sindacale del Sicobas, non si riesce ad avere un confronto sui tavoli previsti da parte del legislatore, quindi i tavoli sindacali, rispetto alla vicenda, e lì riprende la vicenda dei picchetti, che è quella che adesso ci interessa penalmente. Quindi una serie di proteste davanti ai cancelli che in quell'occasione vedono un intervento attivo della polizia in difesa dello stabilimento, o comunque per far cessare la protesta lì davanti, vista anche la vicinanza della via Emilia, e quindi il timore che in tutto questo si andassero a verificare degli interessamenti stradali, quindi il blocco della via Emilia che effettivamente in molti momenti c'è stato. Che cosa succede? La vicenda si trascina in questa maniera per mesi, ed infatti oltre i primi 67 che vanno a giudizio ieri è stato notificato un altro avviso di fine indagine per altre 53 persone per i blocchi e i picchetti del marzo del 2019, e succede che a quel punto i sindacati confederali, dapprima con una parziale, diciamo così, vicinanza della FLAI, l'associazione di categoria della CGIL, alle lotte del SICOBAS, e poi con, diciamo, un ribaltone sindacale che li vede andare a sottoscrivere un accordo con CGIL, CISL e UIL, decidono di procedere con una serie di tappe a, da un lato, cambiare il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori, che infatti da multiservice pulizia dovrà passare nel prossimo anno a contratto alimentaristi, e a procedere a regolamentare i turni, sempre però attraverso l'intermediazione delle società cooperative che di fatto gestiscono l'intero personale di Talpizza. Perché una delle caratteristiche di questa vicenda, e sulle quali noi abbiamo molto dibattuto sia in prefettura che poi al MISE, cioè al Ministero, è il fatto che l'intero personale, quindi tutti gli addetti alla produzione, ad eccezione di qualche persona addetta agli uffici, e dipendente di società cooperative che svolgono le più varie attività. Ricordiamo che vi era la Cofamo che svolgeva l'attività di ortofrutta al CAB, questo per darvi il senso della, diciamo, libertà nella gestione del personale, che ha visto negli anni appunto decine di cooperative che si sono susseguite presso quell'impianto e la totale esternalizzazione del personale. Queste 120 persone coinvolte, insomma, in procedimenti giudiziari sono lavoratrici, lavoratori e anche solidali dei SICOBAS? Nell'ambito di questa vicenda si era creata naturalmente una grossa attenzione da parte di numerose associazioni e anche persone, sia a Modena che fuori Modena. Ricordiamo anche le foto che sono andate su internazionale, l'interessamento di testate giornalistiche nazionali. Quindi, diciamo, questa vertenza da locale ha assunto i connotati della vertenza nazionale. Pertanto, nel corso, diciamo, di questi picchetti o comunque proteste, molte persone sono arrivate da un lato per una solidarietà tra virgolette materiale, banalmente le colazioni o le cose da mangiare, dall'altro si sono trovati comunque anche all'interno dei confronti che poi avvenivano con le forze dell'ordine. Perciò siamo all'interno di situazioni in cui la maggior parte degli indagati sono indagate, per la verità, perché sono operaie di nazionalità straniera. In più c'è l'intero SICOBAS nella sua eterogeneità, quindi tante persone che provengono da tanti impianti e di tante nazionalità, e l'intero coordinamento provinciale di Modena e di Bologna, che devo dire non solo per questo, ma riceve costantemente denunce ogni sciopero che viene effettuato. Quindi sostanzialmente le tensioni si sono registrate perché le forze dell'ordine volevano sgomberare i picchetti. Sì, in via molto sintetica la questione è questa. Esattamente, nel momento in cui lo sciopero, comunque il picchetto, diventava ingestibile da parte dell'azienda, si procedeva ad una, attraverso diciamo l'intervento delle forze dell'ordine, che buttando lacrimogeni sgomberavano i cancelli di Talpizza, quindi potevano entrare i tir che erano stati fatti già in qualche modo defluire in una piazzola organizzata sempre dalle forze dell'ordine. A quel punto, per forza, tutta la vicenda si spostava sulla via Emilia, perché comunque la gente correva, le persone si dovevano disperdere, quello era l'unico punto di fuga. Quindi, di fatto, unitamente alla, diciamo così, liberazione dei cancelli, si realizzava un blocco della via Emilia. A quel punto la polizia interveniva, perché la via Emilia è una arteria evidentemente importantissima, per andare a sbloccare la via Emilia, e c'era anche lì, e è testimoniato da decine di fotografie, quello zig zag tra gli automobilisti in coda, i lacrimogeni, i lavoratori e le persone che erano all'interno della protesta che correvano tra le macchine. Ci sono già date per udienze? No, attualmente questo è un avviso di fine indagine e aspetteremo la fissazione delle udienze, dopodiché chiederemo la riunione di tutti questi procedimenti, per che non riguardano soltanto la vertenza di Italpizza, ci sono in piedi anche altre decine di procedimenti, per esempio sulla vicenda Alcaruno che riguardava appunto le aziende della carne, nelle quali ci sono anche lì centinaia di lavoratori indagati per violenza privata e poi tutta, diciamo così, quella carrellata che fa seguito agli scontri con le forze dell'ordine, dei quali chiederemo appunto la riunione per celebrare finalmente questo maxi processo al sindacalismo del Sicobas su Modena.